ci mettiamo comodi. Vogliate c'è dall'altra parte, se vuoi, c'è una figlia. Siete a casa, vedi? Grazie, grazie. Che bei pasticcini. Beh, facciamo... Sì? Ah. Allora, andate a chiappare un biscotto, sentate, perché sennò... Infatti, il biscottino a voi, dopo questa cena, dopo questo giro. Grazie. Anche per me. Grazie mille. Sì. Una frolla squisita. Eh sì, infatti, infatti. Bene, possiamo. Allora, diciamo, questo primo approccio, insomma, shock. Com'è andata? Ho domande, volete, non so, avete qualche curiosità rispetto alla visita, alle due visite che abbiamo fatto prima di iniziare a parlare di Sou? Ragazzi, non è un esame, bellissime e sorprendenti. Io volevo chiedere una cosa, c'è un catalogo dell'ambasciata? No. In realtà di Farma c'è solo un libro che abbiamo qui, adesso ve lo mostriamo, che abbiamo fatto dopo 10 anni di attività, perché è sempre difficile raccontare un progetto come Farma, perché Farma cambia sempre, e quindi non ci piaceva l'idea di una roba che raccontasse in maniera anagrafica 2010, 2011, 2012, non ci piaceva una cosa che raccontasse gli artisti uno per uno. E quindi è venuto fuori un racconto di Farm, Favarra, Sicilia, l'Italia e il mondo attraverso i lenti di Farm. Devo dire che ancora oggi, a distanza di 3 anni, il libro tiene. Peraltro è incredibile come poi tutte le cose tornino, no? Perché quando stavamo per finire il libro abbiamo avuto quest'idea di Countless Cities, della Biennale delle Città del Mondo, e dentro il libro c'erano le città. Quindi insomma le cose in qualche modo poi ritornano, no? Anche quando tu vai così senza... Quello che dico sempre rispetto a Farm è che noi lavoriamo mossi dall'istinto, non è che c'è un libro che ti dice pagina 1 oggi fai questo, pagina 2 fai quest'altro, l'istinto ci ha guidato fino a oggi pomeriggio. E però ti rendi conto poi a distanza di tempo come tante cose che magari tu hai messo insieme senza un disegno organico poi trovino un pizzico di uniformità. Mi prendo 2 sedie. No, non c'è bisogno. Un attimo di pausa, ci stiamo assestando tutti quanti dopo tanta bellezza. Io ho una domanda, ma... Ecco. Vai. Francesco. Ha fatto. No, visto che ci approcciamo a lavorare assieme, per capire se c'è stata o qual è stata la scintilla che vi ha fatto pensare... Soul? No, a Farm, prima. Vi racconto entrambe le cose. Solo capisco anche perché... No, in realtà anche solo una storia bella attivata. Farm nasce proprio come un dispositivo di compensazione. Quando abbiamo deciso di ritornare a vivere in Sicilia, l'alternativa era restare a Parigi. Quindi mia moglie ha deciso. Io restiamo a Parigi. Insomma, io mi sentivo veramente un genitore criminale, no? Mi sentivo un assassino nei confronti dei miei figli, perché stavo decidendo di farle crescere a Favara pur avendo la possibilità di farle crescere a Parigi. Quindi diciamo la soluzione fu questa promessa, no? Questa promessa proprio solenne. Restiamo qui, ma facciamo l'impossibile per cambiare questo posto per noi, Carla e Viola, e per tutti quanti. Quindi questa è, diciamo, la premessa di Faro. La premessa di Solo invece è un fallimento. Domani vedrete, immagino, Palazzo Micciche. Mm-hmm. Palazzo Micciche. Noi l'abbiamo visto, non anticipiamo niente. I ragazzi lo conoscono già. Insomma, noi a un certo punto, dopo 3-4 anni che lavoravamo con Farm, ci rendiamo conto che per quanto tu puoi fare esibizioni, portare gente da tutto il mondo, qui se non lavoriamo con i bambini, no? con le nuove generazioni, ma questa società non la cambieremo mai. Quindi abbiamo capito che veramente il tassello più importante è quello dell'educazione. E allora volevamo trasformare tutto Palazzo Micciche in un grande children museum, però non come li fanno gli americani, diciamo, alcuni sono molto belli, alcuni un po' meno. Volevamo fare un children museum farm, no? Quindi con questa logica della scuola di architettura per bambini, però per diverse discipline. E insomma, iniziamo questa raccolta fondi perché avevamo tutta una serie di preventivi, di computi metrici per quel palazzo lì, che erano non meno di 1 milione di euro. Diciamo, voi lavorate in questo ambito, ne parlavamo l'altro giorno, il tema della raccolta dei fondi, no? È un tema sempre complesso e difficile per tutti. Se mi chiedete, diciamo, a livello teorico, oggi un po' meno perché ho un po' mollato la disciplina, ma a un certo punto ero interessato a capire di più, ho studiato tutto quello che c'era da studiare, no? Oggi la grande fortuna del tempo che viviamo è che cerchi su Amazon, ti compri tutti i libri che esistono su una disciplina, te li studi e insomma impari. Però c'è poi un problema tra parte teorica e parte pratica, che vi spiegherò pure. Ma la prima cosa che ti spiegano, diciamo, sul tema della raccolta fondi è che se in una campagna di raccolta fondi da 1 milione di euro tu non raccogli 500.000 euro con massimo 5 donatori, non ce la potrai fare mai. È proprio la scienza della raccolta dei fondi, no? E allora ho detto, ma che cazzo è che ci deve dare questi 500.000 euro, no, a favare? Ci iniziamo a mettere testa, scopriamo che il direttore Mondo di Unicredit era di Favara. Direttore Mondo di Unicredit, dice, cazzo, ma ci danno loro 100.000 euro. Insomma, arriviamo a lui in qualche modo, ci manda 3-4 persone e dopo 2 miliardi di complimenti erano disposti a darci forse 7.000 euro, che poi non ci hanno mai dato. Quindi insomma, questo 1 milione di euro che dovevamo raccogliere, ne avremmo raccolti 20, 25, prendendo un sacco di attività, un sacco di fatica. Vi racconto anche per inciso, anche perché secondo me è importante, perché si accinge anche a gestire una scuola, avere anche un'idea di cosa può significare una campagna raccolta fondi. C'è un signore di Favara, sempre ritorniamo lì, perché poi dovete capire che ogni luogo ha delle risorse nascoste, no? E il nostro compito è quello di tirarle fuori queste risorse, di andarle a scovare. E c'è un signore di Favara che si chiama Antoine Baccaro, che da 40 anni vive a Parigi e si occupa di fundraising a livello internazionale. Ha studio a Parigi, studio a New York. Innamorato di Farm. Antoine, ma come cazzo dobbiamo fare a raccogliere i soldi? E dice, guarda, c'era un momento in cui noi eravamo fortemente corteggiati da un fondo che poi ci ha sedotti e abbandonati, e dice, se voi volete fare una campagna raccolta fondi, io insomma provo a farvi un'offerta, ma proprio di amicizia. Offerta di amicizia, che era realmente un'offerta di amicizia, era destinare una risorsa del suo studio a lavorare per Farm un giorno a settimana in un anno. Quindi un anno di un giorno a settimana una persona di risorsa. Questa risorsa ci costava a noi, solo la risorsa, 60.000 euro. Un giorno a settimana di lavoro. Ok, beh, tome, 60.000 euro. Ovviamente anche tu fai un contratto con una di queste agenzie sempre, come dire, a tuo rischio e pericolo, no? Cioè non è detto che dici, ti affidi la cosa e dici te ne do 60, però se poi non prendo niente te ne do 15, no? Ti paghi tutti e 60. Ma l'altro tema era, va bene, dobbiamo fare un evento a Parigi, dobbiamo affittare il Palais de Tokyo, 15.000 euro, dobbiamo catering, artisti, allestimento, cose di stampa. Abbiamo fatto un calcolo che per fare un anno di campagna raccolta fondi per farma tra Francia e Stati Uniti, buttando la terra ci vogliono 200.000 euro. Quindi tu per raccogliere soldi, loro fanno campagne da milioni di euro, devi avere soldi, ma devi avere tanti, no? Perché sennò il rischio è di veramente di farti malissimo. E allora, diciamo, bruciati da quel fallimento, abbiamo detto, ma possiamo arrenderci e non fare niente con i bambini? Noi sentiamo proprio questa pulsione di dover fare delle cose con i bambini. Ho detto, va bene, sai che facciamo? Prendiamo un pezzo della galleria, lo dedichiamo ai bambini. E così abbiamo fatto. Quindi abbiamo tagliato un pezzo degli spazi più importanti di Farma, che erano destinati agli spazi espositivi, e l'abbiamo fatto diventare scuola di architettura. La storia è quella che vi porta oggi pomeriggio ad essere qui con noi a Mazzarino, no? E la storia fino ad oggi, la storia a venire la dobbiamo costruire insieme, perché anche qui con Silvia, con Cristina, con Florinda, Claudia, insomma tutte le persone che ci stanno più vicine e anche gli altri colleghi vostri che già dirigono altre scuole, stiamo chiedendo ma cosa deve essere Souda Grande, no? Souda è nata nel 2016, siamo nel 2023, a 7 anni. A me piace sempre fare questo riferimento, no? C'è questa roba per cui ogni anno di una persona equivale, ogni anno di un cane equivale a 7 anni di una persona. Allora, Farma oggi compie 13 anni, a giugno so 7. Qual è il coefficiente di maturità di un'organizzazione culturale o educativa? È 1? È 2? È 3? Cioè, quanti anni ha oggi so in termini di maturità? Magari non ne avrà 7, ma forse ne avrà 14. O forse 21, ma neanche secondo me sia 21. Secondo me ancora, no, secondo me è più probabile che sia ancora una scelta. Ma anche Farm stessa, no? Qual è il coefficiente di Farm? Cioè, se dovessi darvi un coefficiente in termini di cose che abbiamo fatto in 13 anni, vi darei 14 di coefficiente. Farm avrebbe 144 anni o forse di più. Però la verità è che anche qui, cioè capire quali traiettorie, cosa fare, come crescere, qual è il prossimo passo, no? Cioè, ad esempio, per Sou, secondo me la sfida che già ce l'abbiamo dietro la porta, perché già ce lo chiedono, è la dimensione ovviamente internazionale, no? Zurigo, Panama, Malta, abbiamo tante sollecitazioni, però già facciamo un po' di fatica così, perché ecco, uno si immagina che c'è un'organizzazione mostruosa, poi sono loro due, io che faccio un po' di supporto, ma voglio dire, sapete che Sou non ha mai avuto un finanziamento, e sapete come, diciamo, facciamo noi quanto sia poi complesso dover costruire questa roba qui. Però ecco, la cosa secondo me più importante di Sou è questo patrimonio di risorse umane, no? Questa comunità, perché ognuno di voi è venuto qui sapendo che si sta mettendo addosso, come dire, un mal di pancia, non che diventerà ricco facendo Sou, no? o che in qualche modo questa cosa cambierà la dimensione economica della sua vita in termini positivi. Ed è così, è stato così con Ostuni, Bari, tutte Asti, ovunque ci troviamo, abbiamo persone come voi belle che in qualche modo hanno detto ma questa è una cosa bella, la devo portare nella mia comunità. E il futuro lo dobbiamo pensare un po' tutti quanti insieme, no? Capire quale sarà il prossimo grande progetto di Sou, come fare in modo di poter essere più efficaci, più sostenibili, di avere appunto un'apertura in una scala internazionale, come mettere in cassaforte diciamo questa esperienza, in maniera tale che anche se Silvia, Andrea o Cristina domani naturalmente abbiano delle necessità di fare altro nella vita, questa cosa vada avanti, no? Quindi queste sono tutte domande aperte e non abbiamo tutte le risposte, e ci piace anche essere molto onesti con chi in qualche modo si sta avvicinando a noi in questa esperienza qui. Sou è sicuramente la cosa più bella che ha fatto Farm in 13 anni, forse la seconda cosa più bella, o meglio, l'altra cosa più bella ancora è stata questa cosa totalmente inaspettata di fare un viaggio in Ucraina a portare indietro 56 persone, ed è stata un'intuizione di Carla, quindi c'è speranza che, diciamo, chi ci viene dopo, chi viene dopo di noi sia un po' più lucido di quanto lo siamo noi, no? Noi non ci saremmo arrivati perché avevamo anche quel pudore, dice, ma chi l'ha fatto mai un'azione di e poi abbiamo capito che invece Carla, Florinda, Andrea e Viola in quattro in una settimana, la settimana dopo della partita della guerra, potevamo e siamo riusciti a prendere 56 persone e portarle in Italia in salvo, a portare un camion con, quando c'era la protezione civile, quando c'era Croce Rossa, la prefettura e tutti quanti che ci davano consigli non facevano nulla. Quindi spesso abbiamo il pudore di non fare delle cose che non abbiamo mai fatto, e purtroppo siamo in un paese dove troppo spesso chi dovrebbe fare le cose non le fa. Cioè, la stessa ragione per la quale siamo oggi tutti quanti qua, perché nasce Farm e perché nasce Sou, e perché comunque le istituzioni pubbliche non sono capaci di fare le cose che facciamo noi. Il che, come dire, ci deve fare arrabbiare, indignare e gridare un pochettino più spesso, ma allo stesso tempo non ci deve fare sottrarre da questo impegno, no? Che abbiamo tutti quanti nei confronti delle nostre comunità. Un po' lunga come risposta. Però chi ci ascolta in diretta ha detto molto interessante quello che stai dicendo. Grazie, meno male. Grazie. Federico Bonelli, fondatore di Radio Antidoto, e che ci permette di trasmettere in diretta questa conversazione, per fare in modo che anche, diciamo, i direttori e i team delle altre scuole possano ascoltare poi tra poco quello che ci dirà Andrea riguardo al tema che accomunerà tutte le scuole a partire da settembre, dal prossimo settembre. Ok, prima di passare al tema, vediamo se c'è qualche altra domanda, qualche altra curiosità. Mi pare che stessi facendo una domanda, no? No. Ok. Io inizio a servire questo lemonade, ma che cos'è? Ho lavorato lo zucchero. È una tisana di Franco questo, con... Con l'alloro e il limone. No, in realtà è una cosa che a me piace molto. Grazie Francesco. Mille. Secondo giro. Delizioso, complimenti Franco, è deliziosa. Prendi altri due se mi vuoi dire, mancano quattro. Sono due. Arrivo. Ok. Ok, questa è una bella domanda, la quale ancora anche lì stiamo costruendo una risposta, nel senso che, come sapete, Plurals ha vissuto questo braccio di ferro molto, molto forte con la sovrintendenza di Caltanissetta, adesso si è sbloccata la situazione, e in questo momento c'è Paolo che ci sta dando una mano ieri a presidiare questa comunità che già si è formata attorno a Plurals. Saranno 20-25 ragazzini, adolescenti, che poi c'è un altro gruppetto di un'altra, dello stesso numero più o meno, che studia fuori, che però appena arriva viene, però ancora non abbiamo capito esattamente come farlo funzionare quotidianamente, no? Quello che abbiamo capito proprio in queste settimane è che il nostro interlocutore privilegiato da ora in poi per Mazzarino sono le scuole, e quindi ad esempio lunedì eravamo al Carafa, questo istituto comprensivo di Mazzarino, e abbiamo inaugurato questo nuovo format che si chiama American Cities, che offre talk and friendships, è un modo per avvicinare giovani marinai americani agli studenti facendo dei racconti delle loro città, quindi anche qui ritorna Countless Cities, la Biennale Città del Mondo, in inglese, e poi prevedendo uno spazio di Living Library dove i ragazzi, gli studenti possono parlare one to one con questi ragazzi militari che hanno qualche anno in più di loro, perché sono ventenni, ventitreenni, sono veramente giovanissimi. Quindi diciamo siamo in una fase che potrei definire la montagna va da Maometto. Se siamo in questa fase qui, no? Cioè siamo qui in cui, perché è chiaro che qui quest'estate saremo aperti tutti i giorni anche per i turisti, come farlo. Però diciamo quello che ci sta più a cuore rispetto al secondo livello è capire come far sì che attorno a questo luogo un centinaio, perché poi anche qui non bisogna avere ambizioni mostruose, no? Anche se nel progettare questo spazio noi sempre in collaborazione con questa scuola abbiamo coinvolto 1200 ragazzi, e alcuni hanno fatto dei focus group anche facilitati da Carlo Colloca, che è un sociologo dell'Università di Catania, e poi abbiamo fatto una survey, un type form, un'indagine, un questionario, e insomma la cosa era già rotta, quindi tranquillo. No, c'è poi il piedino da rimettere. Sì, tranquillo, lascia si può sistemare. E quando una settimana dopo aver lanciato questa survey io sono andato a controllare le risposte, pensavo di trovare una trentina di risposte, in realtà avevano risposto 635 ragazzi, quindi significa che un ragazzo su due si è preso un'ora di tempo per dirci esattamente come voleva che si chiamasse quello spazio, cosa c'è essere dentro, quali erano i suoi valori più importanti, quali erano i giornali che preferibilmente avrebbe voluto avere in quello spazio. Quindi diciamo siamo nella fase Maometto va alla montagna, il 21 lanciamo, anzi anche qui vi chiediamo una mano d'aiuto, lanciamo un contest, un premio nazionale per giovani talenti 13-18 anni, quindi stiamo cercando nelle scuole di tutta Italia giovani talenti nelle più diverse discipline, arte in tutte le sue forme di espressione, dalla fotografia alla pittura, alla scultura, installazione, sempre con una declinazione sociale. Abbiamo una categoria del premio che è city making, e quindi architettura, public spaces, place making, pop-up restaurant, qualsiasi invenzione nello spazio pubblico fa parte di quella categoria. C'è la musica, c'è Street Fighter che è per crew dance, danza contemporanea, insomma veramente super iper multidisciplinari. No, lo pubblichiamo il 21. Lo pubblichiamo il 21. Stiamo provando a chiudere un accordo con la rete nazionale dei licei artistici. Io sono in contatto anche sul mio territorio, okay, con tre licei artistici proprio per le residenze. È importante, perché ovviamente i licei artistici ci sembra che siano i nostri interlocutori privilegiati, anzi. E poi, insomma, è ovviamente il primo esperimento per noi di un premio e anche la prima edizione. E la nostra ambizione è quella di creare nel tempo una specie di nazionale dei giovani talenti, no? Under 14, under 16, under 15, come negli sport. E però poi passiamo a una fase successiva dove in qualche modo ci misuriamo anche nella dimensione internazionale, perché Pharma ha sempre avuto questa aspirazione di misurarsi con il mondo, però già l'idea di raggiungere, cosa impossibile, 2.800.000 studenti delle scuole superiori italiane è complicato, quindi abbiamo detto facciamo questa prima edizione il premio nazionale, costruiamo, come dire, un substrato di scuole anche in qualche modo ci vengono dietro, e poi l'idea è che questo diventi un po' una mecca per tutte le scuole. Attenzione, noi abbiamo la convinzione, magari anche qui è una speranza, però credo che sia abbastanza realistica, che come ci sono 18 SOU e tra un po' ce ne saranno 25, 27, 28, quelle che sono, io credo che faremo una decina di plurals nei prossimi 5 anni in giro per l'Italia. Uno già sicuramente nella provincia di Ascoli. Perché, però ecco... Sembra il proseguo comunque anche di SOU, anche con lo è, del tempo. Lo è. Lo raccoglie. Lo è e nasce da un'esigenza che è quella proprio dell'assenza di spazi per teenager in Italia. E da tutte le parti, no? Perché sì, noi non abbiamo nessun modello di riferimento in Italia, in realtà non ce l'abbiamo neanche all'estero un modello di riferimento. Ora abbiamo scoperto che è nato lo Youth Center, tra l'altro ecco, la prima cosa che ci hanno detto gli studenti è non chiamatelo centro di replicazione, a Palermo, e peraltro anche uno spazio dove collaborano anche pezzi della nostra comunità. No, vi volevo raccontare del premio, che diciamo c'è questa dimensione di aggancio delle scuole che è tutta da costruire nei prossimi 2 mesi, però il premio già è partecipato da una quindicina di organizzazioni culturali nazionali che hanno messo a disposizione la residenza per artista, mentorship, c'è Ipsigroc con la musica, scenario pubblico con la danza, c'è Italia che cambia, c'è veramente, abbiamo l'ADI, abbiamo la diplomazia americana che farà parte della partita, una fondazione per l'arte contemporanea, la strada degli scrittori per abbiamo quella giovane editrice della rivista che vi ho mostrato, DAM, che darà un premio speciale, quindi c'è un'opportunità secondo me per i ragazzi italiani mai vista. E dall'altra, ecco, diciamo, per noi è questa dimensione Maometto, cioè montagna va a Maometto. Per un po' di tempo credo che saremo in questa fase qui. Bene, io direi che diciamo è il caso di affrontare un pochettino il tema dell'anno con una premessa.